Le modalità di azione tipiche della mafia, in particolare quella calabrese, tra le quali la lupara bianca, sono soltanto una manifestazione di una modalità tragica, diciamo, di risoluzione di conflitti dell 'ndrangheta che non viene a mancare neanche qui al nord. I casi sono stati molto rari. Ce ne sono stati degli altri. Sì, casi peraltro denunciati ancora in fase, ma soprattutto nel passato. Secondo l'ipotesi vostra, sarebbe stata uccisa per le sue rivelazioni. La causale della morte della Garofalo è una casuale multipla. Sono diversi fattori che hanno indotto il marito a eliminare la Garofalo, tra i quali sicuramente anche il fatto che aveva collaborato con la giustizia. Una collaborazione all'interno del gruppo di una persona facente parte di una famiglia. Ebbene, che sia punita dagli stessi appartenenti al gruppo. È vero che era uscita, aveva chiesto personalmente di uscire dal programma di protezione? Sì, però sono in corso alcune verifiche che credo che non sia il caso assolutamente adesso di portare a conoscenza.